24 mattino di Alessandro Milan. Ci siamo, eccoci, buongiorno, alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Oggi parleremo allora del governo Monti, questo con ospiti alle 8:30. Di che cosa ci attende? Avete paura dell'ICI? Avete paura della patrimoniale? Avete paura che vi tocchino il portafoglio? Vi state già mettendo delle tasche cucite perché temete questo, oppure sacrifici perché è giusto, è necessario, ma avete fiducia in questo governo di professori? Ne parleremo alle 8:30, avremo ospite anche alle 8:20 l'ex ministro uscente Galan, che ci spiegherà anche qualcosa di queste nomine che ha fatto all'ultimo momento. Questo però più avanti, ora iniziamo dalla lettura dei quotidiani, che ovviamente si concentrano in questo giovedì 17 novembre tutti sulla nascita del governo Monti. Oggi la fiducia al Senato, domani alla Camera. Allora, i titoli: il governo Monti ha giurato, ora di corsa, così apre il Sole 24 Ore. Questa espressione usata da Monti, di corsa, la ritroveremo un po' su tutti i titoli. Giura il governo Monti, sarà una corsa, per il Corriere della Sera. Repubblica, il governo dei 18 professori, per La Stampa, Monti al lavoro, ora di corsa. Il Giornale, i nuovi padroni. Il Messaggero, il governo Monti giura, ora di corsa, eccolo lì. Libero, il governo dei secchioni. Il Fatto Quotidiano, Dio, banche e famiglia. E questo stesso titolo più o meno c'è sul Manifesto, i banchieri di Dio. Avvenire, c'è il governo, ora la politica, per l'unità, poteri forti. Questi alcuni dei titoli delle prime pagine. Prima di tuffarci sul tema Monti, una notizia, alcune notizie di altro taglio, una che riguarda tutti voi, cari automobilisti, cari italiani che siete al volante. L'autovelox, linea dura della Cassazione, le multe sono valide anche senza la foto. E so che già molti di voi avranno detto no! Ebbene sì, cari ascoltatori, la Cassazione ha deciso sul ricorso di un cittadino di Massa che aveva avuto ragione in primo grado contro il comune, aveva fatto ricorso perché dice non c'era la foto, come si fa a dimostrare che ero io, insomma sapete quei ricorsi che si fanno. E stavolta la Cassazione ha deciso che la multa con autovelox o telelaser, leggo da Repubblica, è valida e bisogna pagarla anche se non forniscono lo scatto che certifica l'infrazione o la ricevuta con la velocità contestata dall'agente. Basta insomma che decida le forze dell'ordine, facciano la contravvenzione. Anche su Libero, arriva la beffa autovelox, è legittimo anche senza foto. Alessandro Dell'Orto si produce a pagina 22 in un articolo disperato quasi. Almeno prima ti restava la foto ricordo, la strada, il culo della tua auto, la targa, una figura sfocata al volante, non proprio uno scatto d'autore da mettere nel profilo di Facebook o nel book per diventare modelli, ma almeno lo guardavi, lo riguardavi, abbozzavi un sorriso. Autovelox, brutta cosa, brutto pure il nome, un incubo. Quante volte avete inchiodato vedendo all'ultimo momento un'auto sospetta a bordo strada? Ma c'erano bei tempi, scrive Dell'Orto, in cui anche se sapevi di averla fatta sporca potevi controllare, in cui quando sospettavi che i comuni usassero macchinette tarocche o tarate male per far cassa eri tranquillo perché alla fine c'era la prova ultima, decisiva, inattaccabile, la fotografia. Ora non serve più. Ebbene sì, cari ascoltatori, cari automobilisti, è così. La Cassazione ha deciso, anche senza la foto, se beccate una multa perché vi dicono che avete sorpassato i limiti, la dovete pagare. Vado sul Giornale, a pagina 21, una vicenda che riguarda Napoli, alcuni ospedali di Napoli, dove ci deve essere un problema legato alla pulizia, perché da 15 giorni sono in sciopero gli addetti alle pulizie. Ebbene, incredibilmente, il titolo è questo del Giornale, che riprende per la verità un articolo del Corriere del Mezzogiorno: rischi l'infezione, firma se vuoi operarti. Che significa? Significa che questo è il testo di una lettera che il primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Loreto Mare a Napoli, professor Maurizio Postiglione, ha mandato al direttore sanitario dello stesso ospedale, e suona più o meno così: visto che Ci sono gli addetti di polizia in sciopero e dunque anche nelle sale operatorie il livello di pulizia non è più adeguato. Per motivi di emergenza igienico-sanitari causa lo sciopero degli addetti alle pulizie, i pazienti che dovessero essere sottoposti a interventi chirurgici dovranno firmare un esplicito consenso informato a essere operati in condizioni di rischi oggettivi per infezione. Cioè, avete capito, cari ascoltatori, uno è lì a farsi operare e prima di farsi operare deve firmare un consenso che rischia un'infezione perché non si riesce a pulire le sale operatorie perché c'è lo sciopero degli addetti di pulizia. L'impresa delle pulizie in sciopero, scrive Carmine Spadafora sul giornale, lo sporco è ovunque, così prima di operare i medici chiedono il consenso ai pazienti di essere operati a rischio infezione. Una vicenda assurda che proviene in questo caso da Napoli, ne scrive il giornale a pagina 21. Vabbè, ci fermiamo, no, voglio dare solo una chicca. Sabrina Ferilli ha fatto causa perché su un giornale, tale giornale si chiama Scandali 2000, hanno pubblicato alcune foto di lei un po' discinta del passato. E lei ha fatto causa perché ha detto: avete accostato queste foto nella stessa pagina in cui ci sono delle foto di star del porno. E ha fatto causa, voleva dei danni. L'ha persa. Cassazione, foto osè per la Ferilli, nessun risarcimento. Nessun risarcimento perché scrivono i magistrati, si tratta di fotografie di note donne di spettacolo, apprezzate per le loro capacità professionali, attrici e modelle di rango, apprezzate anche per la loro venustà. Ma come parlano questi giudici? La venustà, un termine, sono andato a controllare, risale al XVI secolo. Sabrina Ferilli è nota per la sua venustà. 24 mattino. Ha colpito molto i nostri ascoltatori la venustà di Sabrina Ferilli, la bellezza, leggiadria, così, insomma, un termine un po' arcaico usato in questo dispositivo che ha respinto il ricorso di Sabrina Ferilli mostrata nuda da un giornale. Vabbè, parliamo di cose più serie, più sobrie. Sobrio è l'aggettivo che trovate di più in questi giorni per descrivere l'atteggiamento del nuovo governo Monti, no? I professori, potete vederne anche tutti i profili, oggi il Sole 24 Ore, pagina 5, pubblica tutte le foto, lo schema, Monti, i suoi 17 ministri, 7 i professori, 3 le donne, c'è anche la prima donna nella storia ministro della giustizia, Paola Severino, alla professoressa Elsa Fornero che da sempre si occupa soprattutto di pensioni, di sistema previdenziale andato al welfare. E all'interno invece Anna Maria Cancellieri, che tra l'altro ha regalato una straordinaria battuta al Quotidiano Nazionale, intervistata, intercettata nel momento in cui qualche dichiarazione i ministri le fanno, ha detto: che sorpresa, pensavo di fare la nonna e invece mi hanno chiamata a fare il ministro. Il prefetto Cancellieri, che anche quando è caduto il sindaco a Bologna ha fatto il prefetto, apprezzata da tutti, torna, diciamo, al Viminale. Allora, cosa mi interessa di sottolineare, a parte i profili che leggerete un po' ovunque dei nuovi ministri? Beh, quelle che sono i commenti su questo nuovo governo che oggi giurerà e oggi presenterà anche il programma Monti al Senato, quindi svelerà anche molte cose su quello che intende fare. Intanto, il Corriere della Sera va a sentire qualche dichiarazione, e sono rare, quindi le segnalo, di Gianni Letta. Roberto Zuccolini raccoglie qualche dichiarazione di Gianni Letta, colui che ha detto: ho fatto il passo indietro, a me basta quello che ha detto il presidente Napolitano, gli sono molto grato, ha capito perfettamente il mio gesto, un gesto che qualcuno aveva cercato di sporcare, lui ne ha colto l'ispirazione, il senso alto dello Stato e lo spirito di responsabilità. Così Gianni Letta si sente ricompensato, scrive il Corriere, dalle parole pronunciate da Giorgio Napolitano dopo il giuramento dei nuovi ministri, quello speciale ringraziamento proprio a Gianni Letta, colui che probabilmente confidava, si sperava, entrasse nel governo da parte dei partiti insieme a Giuliano Amato, ma alla fine poi tutti tecnici e nessun politico. Beh, certo, le indiscrezioni poi sono state confermate, è arrivato anche il super ministero per Corrado Passera, che lascia dunque Banca Intesa, e andrà a fare questo super ministero. Tra l'altro si trova proprio nella situazione di passera il fatto che Napolitano e Monti abbiano avuto un colloquio di 2 ore e mezza prima di mettere a punto la lista dei ministri. Proprio il nodo chiave era questo. All'inizio pare che il super ministero non ci fosse, che fosse spacchettato in due dicasteri, vale a dire uno in mano a Piero Gnudi, che doveva tenere le infrastrutture, e Passera allo sviluppo economico. Poi invece si è deciso di accorpare tutto nelle mani di Passera, e invece Piero Gnudi avrà il turismo e lo sport, credo. E quindi questo era il nodo per cui si è protratto per 2 ore e mezza questo colloquio Napolitano-Monti prima della lista dei ministri. Voglio andare, siccome appunto ci sono tanti elogi, per esempio vi segnalo Avvenire, che in prima pagina col suo direttore Marco Tarquinio oggi fa un elogio di questa squadra di governo nel suo editoriale. Voglio andare invece a quelle che sono un po' le critiche che trovate, perché sono un po' trasversali. Beh, i giornali di centrodestra lo attaccano, per esempio Il Giornale mette I nuovi padroni come titolo di prima pagina, e Alessandro Sallusti, il direttore, fa un editoriale dicendo: vi ricordate quando il 25 luglio Il Giornale titolava così in prima pagina, la trappola dei banchieri? E Il Giornale ripropone quella prima pagina. Sottotitolo: contro Berlusconi, De Benedetti, Bazzoli, Prodi e Passera sponsorizzano un governo Monti. E questa, che Il Giornale dice una sorta di congiura, perché ricordo che il mattino successivo da Banca Intesa arrivò una secca e sdegnata smentita: cosa vi inventate, noi siamo una banca e non facciamo politica. Ovviamente nessun giornale riprese la notizia, e da ieri tutto questo si arricchisce di un tassello fondamentale: l'ingresso al governo di Corrado Passera, l'amministratore delegato proprio di Banca Intesa. Dunque Il Giornale parla vero e proprio, usa la parola complotto contro il cavaliere del 24 luglio, le banche, la sinistra a cena con Monti, ed ecco qui. Ma le critiche, qualche critica c'è anche nei giornali, per esempio di sinistra, orientata a sinistra, come Il Manifesto in prima pagina, che mette come titolo I banchieri di Dio, governo politico, scrive Norma Rangeri nel suo editoriale. Meglio confrontarsi certo col professor Ornaghi della destra cattolica che con Calderoli della destra populista, così come non dover combattere nella retroguardia della prostituzione, della corruzione, delle barzellette è una liberazione, tanto quanto lo è avere una terna di ministeri pesanti affidati a 3 donne. Ma le competenze sono un pregio, ma tuttavia non sono né neutre né neutrali. Nel nuovo ministero la laicità resta un tabù, la sinistra non è contemplata, e Gianni Letta, illustre escluso, non avrebbe sfigurato nella foto di gruppo. Insomma, la critica, che è la stessa critica che fa anche Il Fatto Quotidiano in prima pagina, nel titolo Dio, banche e famiglia, è che si esplicita anche nell'articolo Il Vaticano ne dice, è la critica di un governo molto anche legato a persone che hanno nel profilo un curriculum legato alla religione cattolica, tanto che addirittura si fa notare come 3 dei ministri che sono stati nominati escano direttamente da quel patto di Todi o quel congresso di Todi, quello in cui si rilanciarono i politici e si trovarono di recente i politici legati appunto al mondo, alla sfera cattolica. E anche il fatto che oggi in prima pagina di Avvenire il direttore Marco Tarquinio dica è un governo anche con persone che hanno valori consolidati, non fa che confermare questa idea, tanto che l'Unità titola pagina 14 Il Vaticano benedice, per i cattolici è l'effetto Todi. Vabbè, tra le critiche c'è anche il solito graffiante Iena, no? Riccardo Barenghi sulla Stampa: governo, francamente poteva andare peggio, francamente anche meglio. In ogni caso, tra l'altro, nella nomina dei ministri, sempre per rimanere sulla Stampa, Mattia Feltri a pagina 4 scrive un articolo anche con qualche contorno di colore: i colti di sorpresa, la nuova stirpe dei ministri. Beh, vince la palma del colto di sorpresa Francesco Profumo, che racconta Feltri, neo ministro all'università all'istruzione, giaceva nella sua abitazione romana sprofondato nel sonno e nel divano, con il telefonino spento per prevenire le scocciature, perfino quelle di altissima emergenza istituzionale, al che risultava irrintracciabile perfino dal Ministero dell'Interno, dove c'è la famosa batteria. I giornalisti sanno di cosa si tratta, cioè la batteria è questo ufficio di addetti che possono rintracciare chiunque telefonicamente, ma Profumo non si rintracciava, tanto che c'è stato addirittura, racconta Feltri, un qui pro quo. I telefonisti del ministero hanno fatto uno squillo anche ad Alessandro Profumo, l'ex amministratore delegato di Unicredit, che per un momento ha sperato nel gravoso arruolamento da ministro. Poi, risolto questo inghippo, cioè che stavano cercando un altro Profumo, hanno fatto che cosa? Hanno rintracciato la moglie di Francesco Profumo, che insegna a Torino, la quale ha mandato un SMS al marito che, svegliatosi dalla pennica, ha trovato la convocazione e la nomina di fatto, come ti cercano per farti ministro, vedi di darti una mossa, e quindi è riuscito a sapere la notizia. Oppure c'è anche Giulio Terzi di Sant'Agata, attualmente ambasciatore a Washington, che non ha fatto in tempo neanche arrivare al giuramento, perché evidentemente è stato raggiunto in ritardo. O Lorenzo Ornaghi, rettore dell'Università Cattolica di Milano, il suo nome è circolato su Twitter, perché... vedete l'informazione ormai come gira, Twitter, perché durante la lezione, ha scritto uno studente, ha ricevuto una telefonata, è sbiancato, è uscito, è rientrato agli studenti dicendo: devo sospendere le lezioni per motivi a voi noti, ed è scappato via. E quindi su Twitter hanno scritto gli studenti: mi sa che qui vuol dire che qualcosa succede, ed è stato nominato ministro. Vabbè, insomma, a parte il colore, ora c'è il programma di Monti. Oggi Radio 24 seguirà il suo discorso in Senato, che precede la fiducia, e in quel discorso Monti ora dovrà svelare qualcosa di quello che vorrà fare. Rintrodurrà l'ICI sulla prima casa? Farà una patrimoniale? Come metterà mano alle pensioni? Qualcosa farà? E i giornali si esercitano i tre pilastri di Monti per realizzare le riforme, così La Stampa, pagina 5 con Fabio Martini. Sono pensioni, crescita e Parlamento. Per questo ha messo tre uomini fidatissimi e per lui chiave, vale a dire Elsa Fornero, Corrado Passera e il professor Giarda, che è esperto proprio nei rapporti con il Parlamento, in questo ruolo, perché sono i ruoli chiave per fare le riforme. Per il Corriere il primo è il dossier casa, tasse più alte per chi possiede più immobili. Un po' lo scrive anche il Secolo XIX, cioè non è solo la reintroduzione dell'ICI come possibilità data quasi per certa, ma è la versione strutturale progressiva sui patrimoni immobiliari che vorrebbe studiare Monti. Per farla molto molto breve, la logica secondo il Secolo del provvedimento è questa: più case hai, più paghi. E poi c'è il concetto della patrimoniale, chissà che cosa farà. Secondo Libero rilancia l'idea del prelievo sui conti, lo fece Giuliano Amato nel 92, il prelievo forzoso sui conti, ma c'è anche l'ICI, poi le pensioni, staremo a vedere. Certo, oggi per il giornale ovviamente si profila una stangata, noi ne parleremo tra l'altro alle 8.30, cosa farà Monti, temete quello che succederà a Monti, con il governo Monti. E intanto Berlusconi ha detto: siamo in buone mani, facendo il passaggio di consegne a Monti. E allora, siamo in buone mani, ha detto Berlusconi, ma secondo i giornali, sia secondo Repubblica, sia secondo Il Giorno, sia secondo Il Giornale, è pronto alla campagna elettorale. Il PDL è pronto a ritornare in piazza, così titola pagina 11 Repubblica. Berlusconi chiude l'ufficio di presidenza PDL in serata. Nella notte già gli attacchini sono partiti per affiggere 1 milione di manifesti in tutta Italia con il titolo "Io raddoppio". Berlusconi è entrato in campagna elettorale, secondo i suoi. Di certo è partita la sfida contro il tempo per evitare la balcanizzazione del partito, la disgregazione del Popolo della Libertà. Ora torno a fare l'imprenditore, avrebbe detto ieri, ma di un partito. Adesso riorganizziamo tutti. tutti e tutto. Il giornale titola così: Berlusconi riparte dal suo PDL, da oggi è campagna elettorale. Dunque pare un Berlusconi che non voglia mollare un'altra promessa, e questa: faremo il governo ombra. Lo chiederemo tra l'altro alle 8:20 al ministro uscente Giancarlo Galan, che sarà con noi. Segnalo anche l'intervista di un altro ministro uscente, Renato Brunetta, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 17. Dice Brunetta: Monti dica che non si ricandiderà. E poi sulla domanda: ha visto che Monti ha abolito il suo ministero, la pubblica amministrazione? Ne sono felice, risponde Brunetta, sempre spiazzante, no? E perché? Sono felice, vuol dire che basta solo implementare le cose che ho già fatto io. E io sono professore come Monti, amo questo paese, il premier è un uomo capacissimo e di prestigio, ma voglio che dica: bravo Brunetta, brava Gelmini, viva la legge di stabilità. Non chiede un po' troppo, chiede Monica Guerzoni del Corriere. Il governo Berlusconi è stato uno dei migliori della storia e io da Monti mi aspetto un'operazione verità. Così dice Brunetta, mentre la pensa in modo molto diverso De Benedetti, l'ingegnere De Benedetti, intervistato dal Corriere della Sera da Aldo Cazzullo, dice di tanto di Berlusconi: lo show è finito, è stato un serial TV durato troppo a lungo, cominciato tutto su un set televisivo con la messa in scena del tavolo di noce, del contratto con gli italiani, alla presenza di un notaio fasullo, anche quello, termina con la tragedia di un paese eticamente distrutto, economicamente sfiancato e finanziariamente sull'orlo del fallimento. Lo show è finito. Così dice De Benedetti, che poi neanche per il PD, in questa intervista al Corriere, dice: il Partito Democratico non ha corrisposto alle aspettative mie e quelle di tanti entusiasti alla sua nascita. Bersani è un'eccellente persona, un ottimo ministro, lo è stato, si è dimostrato un politico eccellente. Ma in un'epoca in cui la comunicazione è importante, lui è più efficace comunicativamente nella versione crozza che in quella originale. Insomma, impietoso il giudizio di De Benedetti, che neanche per Renzi non mi convince, assolutamente no. La rottamazione può essere la condizione per un progetto, non può essere un progetto in sé. Di Berlusconi ne abbiamo già avuto uno e ci è bastato. Insomma, vedete, è impietoso anche su Renzi, lo paragona, dice, come Berlusconi. Tempi duri, cambiano i tempi, in politica a volte le svolte si hanno in maniera molto lenta, ora insomma sembra tutto molto veloce. Scilipoti per esempio, tempi duri, pagina 16 del giornale, Scilipoti, onorevole pignorato. Da responsabile a pignorato per l'ex Italia dei Valori Scilipoti, detto Mimmo, Domenico detto Mimmo, i guai sembrano non finire mai, la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello emessa a Messina nel 2009, è stato condannato a risarcire 200.000 euro all'ingegner Carmelo Recupero, a cui il deputato chiese negli anni 90 un progetto per la costruzione di un poliambulatorio medico in provincia di Messina. Secondo le indiscrezioni, il legale del creditore avrebbe ottenuto il pignoramento degli immobili di Scilipoti per pagare i 200.000 euro. Tempi duri anche per Don Verzè. Il fondatore 91enne del San Raffaele, oggi tutti i giornali raccontano il proseguo dell'inchiesta di ieri, di cui parlava il Corriere della Sera, con l'arresto di una persona definita un faccendiere, Piero Daccò, vicino al San Raffaele, ma raffica di perquisizioni che sono proseguite anche ieri. La finanza è andata anche a casa di Don Verzè e l'accusa di avere occultato dei denari che la finanza cerca. Vabbè, sono in rapida conclusione, il tempo è sempre poco, le cose da dire tante, vi segnalo solo due cose. La prima: c'è grande polemica su questa pubblicità offensiva di Benetton, che ha messo tra gli altri in un cartellone il Papa e un imam egiziano che si baciano, ma ha messo anche tanti capi di Stato che si baciano, anche Sarkozy, la Merkel, eccetera. Pubblicità scandalo alla maniera Benetton, alla vecchia maniera Oliviero Toscani, subito ritirata con lo sdegno anche del Vaticano. Vi segnalo in prima pagina del Secolo XIX una vicenda tirata fuori dal Secolo da Paolo Crecchi. Diventa un giallo la morte di Don Gianni Budget Bozzo, avvenuta nel 2009. Perché? Un parente denuncia il medico curante di Don Gianni Budget Bozzo, che è l'erede universale del testamento. Dice: lo hanno ucciso. Il medico curante Patrizio Rinaldi Odetti è stato denunciato per omicidio colposo. È lui l'unico erede universale del sacerdote politologo scomparso nel maggio del 2009. È possibile che l'inchiesta affidata al pubblico ministero Azzarà partorisca risultati clamorosi. Sarebbe infatti sparito 3 mesi prima della morte di Don Gianni un testamento, e poi il medico che lo ha curato, o secondo i parenti non lo ha curato e lo ha fatto morire e l'avrebbe lasciato morire, è diventato l'unico erede del testamento. Una vicenda che oggi il Secolo XIX mette in prima pagina con un'intera pagina 13 poi, e che sicuramente farà discutere. 24 mattino. E allora eccoci, le 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Oggi il governo Monti, dopo il giuramento, andrà al Senato. Insomma, che farà il governo Monti? Intanto ne vogliamo parlare con una persona che del governo faceva parte fino a pochi giorni fa. Giancarlo Galan, buongiorno. Buongiorno a voi. Ministro uscente ai beni culturali. Intanto, che effetto le ha fatto vedere un nuovo governo giurare? Insomma, era lei lì fino a poco fa. Ma era la prima volta della mia vita questa, perché era la prima volta che uscivo da un governo e un governo... cadeva, ma non ho sofferto particolarmente. No. Resta sempre il rimpianto di tante cose che si erano avviate e che spero che il mio successore porti a compimento. Ornaghi, Lorenzo Ornaghi, rettore della Cattolica. Lei in un'intervista alla stampa ha parlato di poteri forti, le banche, insomma queste parole, il complotto. Adesso c'è che pensa? Per esempio c'è Corrado Passera, dalle banche al governo. Penso lo stesso, che è la stessa cosa che pensavo ieri, questo governo di altissima qualità nel quale ho fiducia e spero che realizzi, prima lei parlava di che cosa farà il governo, io spero che realizzi quel programma che è scritto negli impegni che abbiamo preso con l'Unione Europea, e spero che si dedichi con maggiore attenzione di quello che abbiamo fatto noi alla crescita e allo sviluppo, mi pare che parta bene. Dopodiché che sia espressione dei cosiddetti poteri forti, non parlo di complotto, di altro, non è un complotto, fatto sta che Berlusconi è caduto non per un'azione della magistratura, non per un voto parlamentare, è caduto, se così si può dire, per sua scelta, e cioè per senso di responsabilità. Ma che fa, molla secondo lei Berlusconi? Perché pare che parta la campagna elettorale in realtà. Io credo proprio che Berlusconi, conoscendolo io da 27 anni, non abbia nessuna voglia e nessuna possibilità di mollare. Noi lo vogliamo in posizione probabilmente diversa dal passato, con un ruolo che si ritaglierà, ma insomma Berlusconi resta ancora il meglio che la politica abbia saputo esprimere in questi ultimi 50 anni. Ma Monti dura secondo lei? Perché pare proprio dai giornali che Berlusconi punti ora ai manifesti, alle manifestazioni di piazza, proprio a dire tra poco si vota. Ma dipende da Monti la durata di Monti. Noi siamo qui per aiutarlo a durare e a svolgere il compito per il quale è nato. I manifesti tutto fanno parte di una tradizione, insomma dovremo pure essere presenti, prima o poi si voterà, prima o poi l'Italia ritornerà ad avere un governo votato da qualcuno, ministri scelti da qualcuno, un presidente del Consiglio scelto dal popolo. La situazione eccezionale in cui siamo oggi non è destinata a durare in eterno, spero. Intanto, Galan, lei, una persona con cui ce l'ha e non ne fa mistero, è Tremonti. Ma perché ce l'ha così con Tremonti? Lascio perdere i fattori umani, e parlo solo di quelli politici, che sono quelli che hanno una valenza esterna, perché ha sbagliato tutto, perché non ha dedicato un minimo di attenzione alla crescita, non ha dedicato un minimo di attenzione a quello che, pur essendo lui il plenipotenziario in Europa del governo italiano in Europa gli veniva chiesto. Non ha fatto una misura liberalizzatrice, insomma le ma perché ha fatto apposta? Lei aveva la sensazione addirittura che rimasse contro? No, di questo no. Ma perché non è nella sua natura. Ognuno sa fare alcune cose, ecco, io ce l'ho anche per un altro motivo, e che cioè? È un errore enorme, e questo non dipende da lui, è un errore enorme quello di affidare in pratica 5 ministeri a una sola persona. L'errore lo ha fatto Bassanini nella sua riforma, ma dare il Ministero dell'Economia, che comprende il bilancio, il tesoro, le entrate, le uscite, persona, e il controllo delle entrate e delle uscite, beh, insomma, francamente è proprio sbagliato. Ma se lo incontra Tremonti che gli dice? Niente. No, non mi dice niente. Tremonti non è un caloroso dal punto di vista umano. Lei sì, però lei è uno, no, lei che gli dice? Io gli dico esattamente quello che sto dicendo adesso, che ha sbagliato tutto, l'ha fatto con un tratto umano non piacevole. Senta Galan, ma è vero che lei si definisce un disoccupato? La stampa ha detto, ho chiesto, no, siccome lei non è parlamentare, ho chiesto a mia moglie qualche euro per il giornale. No, dai, questo no. Ogni tanto bisogna anche scherzare su se stessi, politica si fa così poco. Avrà l'indennità da ex governatore del Veneto, immagino. No, quello non ho niente, ma non mi preoccupo, insomma, se uno dopo che ha fatto 15 anni il governatore di una regione come il Veneto, ma perché non ha niente, due anni il ministro ha delle preoccupazioni sul suo mantenimento, è meglio che si vergogni. No, infatti, ma come non ha niente come indennità da ex governatore? L'avrà, la prenderà? L'avrò, sì, ma sono, se mi è consentita, troppo giovane. È giovane ancora. Senta, però Galan, adesso le devo chiedere di questa storia invece delle nomine che il Secolo XIX ha denunciato, lei avrebbe ha fatto insomma le nomine negli ultimi giorni, no? Perché Gigi Marzullo in una commissione ministeriale? Come si diceva una volta, io la ringrazio per questa domanda, perché quelle... Come direbbe Marzullo? Perché quelle nomine scadevano in luglio, quindi io ho avviato in luglio la pratica, che è lunga, le nomine sono avvenute ai primi giorni di ottobre, sì, quindi parliamo di un mese e mezzo fa, la conferenza Stato-Regioni, che a sua volta nomina altri componenti in quelle commissioni, ha dato il via libero definitivo il 27 di ottobre. Non le si contestano, ma non le si contestano le nomine, ma che nomine? Cioè Marzullo, un giornalista di Panorama il cui unico merito sarebbe quello di averlo intervistato. Ma queste sono miserie di chi ha scelto questo modo per fare il suo lavoro, insomma non lo giudicheranno tutti. Marzullo è il responsabile dei programmi culturali della RAI, sarà mica un cretino, no? Non mi pare che quelli, io ne ho sostituiti soltanto 5 su 12 complessivamente, non mi pare che quelli che sono cambiati fossero dei geni assimilabili a Leonardo da Vinci. Cioè lei all'accusa di dire all'accusa di aver messo gli amici degli amici non che risponde. Aggiungo una cosa, che queste commissioni sono remunerate con un gettone di presenza di 30 euro. Sì. E si riuniscono in un anno 10 volte, parlo di 30 euro lordi, quindi capisce che è proprio una polemica sbagliata. Come dice, sono persone scelte per cosa? Per i meriti nel mondo del cinema. Sono persone che intanto hanno dimostrato la volontà di volerlo fare, le candidature arrivate non erano mica tantissime. Dopodiché sono persone di cui io stima, io di Gigi Marzullo, dopo lo sfotto anch'io come si fa in alcune, però insomma è il responsabile dei programmi culturali della RAI, insomma può far parte, tenga conto oltretutto che di queste commissioni ovviamente non possono far parte tutti quelli che hanno un interesse nel mondo del cinema. Sì. Quindi un produttore non può farne parte. Ah certo, per persone però dice l'accusa è che non c'è gente anche che magari non ne sa niente di cinema. Questo almeno il Secolo XIX faceva questa denuncia, insomma il nostro amico Michele Anselmi, che so ci ascolta sempre, ha fatto questa denuncia. Ma sa, gente che non ci capisce niente, ma oddio, si potrebbe dire che saranno bravi quelli che scelgono i film vincitori dei concorsi e poi non va a vedere nessuno, no? Ecco, ma si può anche dire che nel passato si sono finanziati film, opere, che poi per davvero nelle sale non ha visto nessuno. E allora non saranno mica tutti i geni quelli del passato e tutti i cretini quelli che ha scelto lei. Vabbè, senta, che farà allora? Come la definiamo noi, disoccupato in questo momento, Giancarlo? No, io ho molte cose da fare, anche cincinnato è rimasto... Cincinnato? Sì, lui almeno nei campi, ecco, ci sono tante cose da fare, io continuerò a fare politica. Sempre con Berlusconi, lei sta con Berlusconi, lei non tradisce, le piace questa parola, tradire? Sì, mi piace, questa parola mi piace. Ci sono, no, i traditori. Sono 27 anni che sto con lui, gli devo tutto, gli rimprovero molti errori, gli faccio i complimenti più vivi. Ne ha visti di traditori questi giorni? Tutta la vita li ho visti. Nella politica quasi il tradimento sembra una prassi comune, una procedura accettata. Mi dica in un flash che devo chiudere, il traditore numero uno per di Berlusconi chi è per lei? Ma no, ce ne sono tanti. Uno, mi dica. Mi dica il più traditore di tutti. Ma ne scelga uno a caso. No, che io non scelgo, faccio. Sono tutti quelli che hanno un qualche debito e non lo hanno rispettato. Avrà un nome. No. Chi ha votato la lista Berlusconi presidente e poi se ne è dimenticato? Chi lo ha fatto almeno doveva avere l'onestà intellettuale. Vabbè, non me lo dice allora un nome, uno. No, non me lo dice. La ringrazio allora, buona giornata. Buongiorno e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a Giancarlo Galan, ministro uscente ai beni culturali. Ci fermiamo, allora che farà invece il governo Monti? Cosa temete, ascoltatori? Temete che vi tocchi il portafogli? Tra poco, 800 24 00 24. Eccoci allora alle 8:37 minuti. Allora, il governo Monti, temete che cosa? Che metta le mani nelle tasche degli italiani, sacrifici, lacrime e sangue? 800 24 00 24. Intanto saluto il vice direttore di Libero, Franco Bechis. Buongiorno Franco. Buongiorno, benvenuto a tutti voi. Allora, intanto Franco, vorrei far ascoltare la storia, perché noi l'abbiamo scelto, lo saluto, Antonio Amorosi, adesso vi spieghiamo chi è Antonio Amorosi, buongiorno. Buongiorno a lei, tutti gli ascoltatori. Lei è un ex assessore, tra l'altro, nella giunta di Cofferati a Bologna, è stato assessore a Bologna. Sì, sono stato assessore anche se non ero un politico di professione. Oggi fa il consulente, fa il giornalista, è un collega, e l'abbiamo chiamata perché mi ha colpito molto la sua storia. Ieri l'ho letta sul Corriere della Sera. Lei 3 mesi fa, più o meno, che cosa ha fatto? Ha fatto una previsione, ha preso la sfera di cristallo? No, un po' meno, qualche settimana fa. Ha preso la sfera di cristallo e ha detto che cosa? Ha vaticinato che cosa? Ho vaticinato la selezione pubblica di 13 persone. Praticamente ho fatto un'inchiesta giornalistica per Affari Italiani e ho trovato la coincidenza della scadenza dei contratti di 13 alti dirigenti del Comune di Bologna con le selezioni pubbliche che lo stesso Comune di Bologna aveva indetto. C'era una corrispondenza tra i bandi del Comune e i curricula di queste persone. Non ho fatto altro che seguire l'iter di questi bandi e verificare che erano perfettamente aderenti alla scelta, a scegliere di nuovo queste 13 persone. Hanno partecipato, il Comune di Bologna poteva fare tante scelte in questo caso per indicare, trovare quali fossero i migliori secondo un sistema meritocratico, trasparente, quali fossero i migliori dirigenti possibili da assumere a tempo determinato per la macchina pubblica, fare un concorso pubblico con prove scrittorali, una commissione indipendente esterna. Invece ha scelto semplicemente un'operazione in cui le persone inviano un curriculum e svolgono un colloquio di 30 minuti. Sta di fatto che lei i 13 nomi che ha detto, guardate che secondo me saranno scelti questi, ha vinto come la schedina, come sì, il totocalcio. Ha fatto 13. E, vabbè, per carità, qui noi non diciamo nulla, non ci sono, sarà tutto regolato. regolare, Amorosi? Sarà stato tutto. Il problema della regolarità, come dire, il decreto Brunetta impone che gli incarichi dirigenziali e le altre specializzazioni decadano con il mandato del sindaco, perché molti di costoro sono entrati semplicemente per legami con i sindaci precedenti e quindi negli anni si sono rimandati di sindaci in sindaci. Ci sarebbero anche, ma non è il compito mio capire se c'è una violazione formale o non c'è, il compito mio è capire e mostrare che tanti cittadini in buona fede partecipano ai concorsi convinti di essere selezionati per il merito, per le proprie capacità, invece è già tutto preparato precedentemente. Ecco, allora diciamo noi, no, ma si fermi un attimo e stia con noi, perché sì, volevo partire proprio da qui per dire, insomma, ICI patrimoniale, pensioni, tutte riforme importanti, ma le incrostazioni dell'Italia forse si vedono da piccole, grandi storie come anche questa. Franco Bechis, non che adesso arrivi o sia arrivato Mandrake, Monti a cambiare l'Italia, a ribaltarla diciamo dall'A alla Z, però insomma anche questa piccola storia da cui volevo partire fa capire che le cose da fare in Italia ce ne sono e tante. Però venendo alle cose concrete che oggi già potrebbe annunciare Monti, tra l'altro voi su Libero state facendo proprio le pulci anche, no? Tu da qualche giorno al professor Mario Monti, anche in nome della trasparenza, quello che ha, i beni immobiliari, quello, per esempio i beni immobiliari. Partiamo da qui, rimetterà l'ICI Monti? Sì, sembrerebbe di sì. Io credo che non dobbiamo attenderci né oggi né domani, quando il professor Monti annuncerà il suo programma al Senato e alla Camera, dei provvedimenti dell'annuncio di provvedimenti di dettaglio, perché non lo farà, e capiremo anche perché non lo fa. Credo che anche nei colloqui qualche cosa sia stato esaminato, la sua risposta è stata: io volerò alto, non scenderò in provvedimenti di dettaglio, così non vi metto in difficoltà, perché altrimenti parte già subito con la possibilità di essere un po' azzoppato dai partiti, che ovviamente se lui dice faccio l'ICI, faccio la patrimoniale, non lo votano, perché questa devono perlomeno salvare la faccia di fronte. E però che senso avrebbe avere la fiducia e poi proporla tra due mesi? In quel caso non la voterebbero neanche dopo? No, lo farà anche prima di 2 o 3 mesi. Diciamo non annuncerà provvedimenti di dettaglio, e se uno si attende rimetto l'ICI, no, parlerà di cose molto più generiche. Poi credo che la rimetterà. Questo credo che alcune cose devono essere fatte per problemi di finanza pubblica, perché è vero che abbiamo fatto 2 grandi manovre, ma è vero anche che con le aste dei titoli di Stato che ci sono state da settembre a oggi, i conti di quelle manovre non sono più validi, perché abbiamo un aumento della spesa per interessi già immediata, avendo piazzato dei titoli di Stato magari anche a 5 anni, con un interesse che era 3-4 punti superiore ai titoli di Stato che scadevano, quindi c'è un costo di spesa per interessi che va recuperata in manovra finanziaria. E poi ci sono provvedimenti strutturali che sono quelli sulle pensioni, per esempio. Ecco, il fatto che abbia scelto la professoressa Elsa Fornero al welfare, una persona che da una vita si occupa del sistema previdenziale, vuol dire che ci sarà una immediata o imminente svolta sulla riforma per quel che riguarda il sistema previdenziale per gli italiani? Ma certo, il governo è poi libero di scegliere quello che vuole, però la Fornero è intervenuta più volte negli ultimi 2 mesi spiegando qual è la sua idea è quella di estendere il sistema contributivo per tutti, quindi immagino che proporrà la stessa cosa una volta che è al Ministero, e che è una formula che significa questo, fa avere sicuramente pensioni più basse quando si andrà in pensione. Diciamo che con la riforma Dini tutti quelli che hanno iniziato a lavorare dopo hanno già questo sistema. Tutti quelli che a quel punto erano già al lavoro, dipendeva da quanti anni avessero alle spalle, in parte potevano essere col sistema vecchio retributivo, quindi si calcolava la pensione sugli ultimi anni di stipendio, tanto per intenderci, o con un sistema un po' così, un po' nel nuovo modo, ecco, estenderlo a tutti fa risparmiare nelle casse dello Stato, e soprattutto senza porre degli obblighi precisi, però agevola l'andare in pensione più tardi, perché ovviamente gli ultimi stipendi in genere sono quelli più alti, o per scatti di anzianità, sì, o perché uno ha fatto carriera, e quindi più stipendi alti ha, più la pensione sarà più alta se lavora più anni con lo stipendio alto. Diciamo che serve come incentivo, fare in pensione più tardi, è una misura sicuramente più accettabile. Anche se poi le misure sul sistema previdenziale è una cosa che vedremo nel tempo. Un altro tema dal quale voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico è quello anche della patrimoniale. Si dice una patrimoniale ci deve essere per qualcuno. Oggi anche De Benedetti in un'intervista al Corriere della Sera dice la patrimoniale ci vuole. Poi la patrimoniale che vuol dire? Sui grandi patrimoni, una patrimoniale per tutti. Addirittura Libero oggi titola, e chiederò Franco Bechis, rispunta l'idea del prelievo forzoso dai conti correnti, il modello amato nel 92. Lo chiederemo anche a Norma Rangieri del Manifesto, che ci raggiunge tra poco dopo il traffico. Allora, cari ascoltatori, cosa temete? Il ritorno dell'ICI, per qualcuno una tassa equa, ci scrive, per qualcun altro pagare una tassa su una casa comprata e quindi sulla quale già si pagano le tasse per comprarla, è una tassa iniqua, andava tolta. La patrimoniale temete? Oppure che cosa? Il prelievo forzoso dai conti correnti, come oggi titola Prelievi sui conti, Libero a pagina 9, siamo con il vice direttore Franco Bechis, siamo anche, ci ha raggiunto, la ringrazio, Norma Rangieri del Manifesto, buongiorno Norma. Eccoci qua, ci sente? Sì, eccoci qua. Oggi il Manifesto, che titola I banchieri di Dio, perché questo c'è anche un altro aspetto, anche il Fatto Quotidiano sottolinea che molti ministri hanno un curriculum molto vicino, diciamo, come esperienze anche agli ambienti cattolici. Beh, il Manifesto che da giorni ha un po', guarda con, come dire Norma Rangieri, devo dire con uno scetticismo, oggi usate questa espressione latina, tu usi questa espressione nel fondo di prima pagina, hic rodus, hic salta, cioè... No, vabbè, per chi non sapesse, qui è Rodi, qui devi saltare, ma vuol dire dimostraci quello che dici, insomma, dimostra le tue affermazioni in senso traslato. Cioè, cosa pensate di questo governo Monti al Manifesto? Diciamo, hic rodus hic salta, io lo dico anche rispetto alla sinistra, perché siamo tutti in un guado, forze politiche, il paese... e quindi diciamo adesso chi ha filo da tessere lo deve tessere, deve dimostrare di cosa è capace, il governo dal canto suo e anche la sinistra, perché noi eravamo diciamo per andare quanto prima alle elezioni dopo aver approvato la legge di stabilità, perché non c'è niente di più politico dell'economia e quindi fare delle scelte, come appunto tu dicevi adesso, cosa facciamo, la patrimoniale, le pensioni, cioè, sono diciamo, la quintessenza di un programma politico e io penso che questo sia un governo, quello di Monti, molto politico e quindi bisognava andare alle elezioni perché ognuno presentasse la sua ricetta e i cittadini decidessero che cosa bisognasse fare. Ora non è così, c'è questo governo diciamo di decantazione, però gli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra devono comunque diciamo dimostrare di che cosa sono capaci, cioè come affronteranno questa fase inedita, molto difficile, che tuttavia speriamo, però che ne so, credo fermamente, ci porterà alle elezioni. Però che ne so, una patrimoniale, che è quello può andare bene a voi come idea? Nel senso, sì, nel senso che noi vorremmo che a pagare questa crisi fossero anche, ci fosse una certa redistribuzione dei carichi, no? Perché se tu carichi sempre su chi sai che non può sfuggirti perché ha uno stipendio, una denuncia di redditi obbligata e vai sempre lì ad attingere in vari modi, o tagliando le tredicesime, o tagliando i contributi, o tagliando le agevolazioni fiscali, o togliendo l'assegno al familiare che ha bisogno di assistenza, cioè in tanti modi non va bene. E capisco che se uno si è comprato una casa e ha già pagato le tasse e non è giusto che venga di nuovo tassato, però siccome siamo in una situazione straordinaria e purtroppo chi ha appunto un reddito fisso ormai non ce la fa più, è chiaro che se uno ha un reddito di 1 milione di euro deve in questa situazione contribuire. Io su questo, Franco Bechis, io sul titolo dei prelievi sui conti, dite la verità, state facendo un po' di sano terrorismo da Libero nei confronti di Monti, no? C'è davvero questa idea del prelievo forzoso sui conti che ci fu con Amato nel 92, Bechis? No, non credo, adesso non è quel tipo di prelievo forzoso, però bisogna intenderci, perché l'unica cosa che Monti ha fatto capire anche in colloqui precedenti, nei colloqui per la formazione del governo, che lui non è orientato verso una patrimoniale straordinaria che risolve i problemi di finanza pubblica, ma verso una patrimoniale ordinaria. La patrimoniale ordinaria, anzi ha fatto pure riferimento, è il modello francese, quello che potrebbe entrare, diciamo, nelle ipotesi di misura. Il modello francese si applica su tutto il patrimonio, compresi i conti correnti e i depositi. È una percentuale che oggi in un modo, ma dal 1 gennaio dell'anno prossimo, è molto semplice, 0,25% tra 1 milione e 3 milioni e 0,50% sopra i 3 milioni. Ora il problema però è che in Italia i patrimoni non sono così facili da identificare. Perché se lo fossero avremmo già una tassazione. Va unita a una forte lotta all'evasione fiscale, questo è ovvio. La lotta all'evasione fiscale c'è, però ogni tanto bisogna uscire un po' dalla retorica. I ricchi che conosciamo pagano perché hanno aliquote IRPEF più alte, pagheranno anche perché magari qualcuno se l'è dimenticato, ma esiste il contributo di solidarietà che scatterà con la dichiarazione dei redditi. Sì. Della prossima primavera, che scatta sopra i 300.000 euro, quindi diciamo sopra i 300.000 euro pagheranno ancora di più tutti quelli che sappiamo che guadagnano da 300.000 euro in su. E sui patrimoni ci sono difficoltà obiettive, quello che dicono è l'ICI, io ho già pagato l'imposta di registro, l'imposta catastale e così via, sì, sono piccole imposte, però capisco, molta gente compra la casa a debito, cioè chiede il mutuo in banca per comprare la casa e magari non ha le risorse per pagare una super patrimoniale, sì. Un immobile. Altri hanno ricevuto in eredità, magari in zone delle città che erano centri storici, un tempo zone povere, se hanno ricevuto la casa in quella zona lì, il mattone si è rivalutato in maniera tale che se per caso lo adeguiamo anche l'ICI ai valori di mercato, quelli non sono in grado di pagarla. Quindi capisco che ci siano una serie di problemi per tutti. I patrimoni sono difficili da identificare, in più sull'evasione fiscale ogni tanto ci raccontiamo un po' di bugie, perché come quasi tutte le statistiche che raffrontano le mancate introiti IRPEF con i consumi e quindi con l'IVA che in quelle regioni ci sono, e ci dicono che la gran parte dell'evasione fiscale non è fatta da super ricchi, è quasi un sistema di protezione sociale fatto da gente che non ce la fa arrivare a fine mese e si prende il lavoro in nero, da quello più classico che tutti conosciamo, cioè le ripetizioni, chi mai paga le tasse su comunque. Tu dici che la maggior parte sono così, sono persone che in qualche modo sono anche adottano. Ma la grande dimensione è fatta da un'integrazione in nero di lavori, di giovani che non sono tutti così disoccupati come dicono le statistiche, perché si arrangiano come possono, di pensionati che integrano pensioni con cui non è possibile vivere, perché quando hai 500 euro al mese è evidente a tutti che non puoi vivere, e trovano lavoretti da integrare. La dimensione grossa dell'evasione fiscale è quella. Poi ci sono chiaro, i super ricchi che sono quelli che fanno anche più notizia, insomma, i super ricchi che vengono ogni tanto imbrigliati nelle reti dell'Agenzia delle Entrate. Io mi devo fermare e ringrazio Norma Rangieri del Manifesto, Franco Bechis, vice direttore di Libero, anche il nostro Antonio Amorosi che ci ha raccontato questa storia iniziale di questo concorso un po' strano, vaticinato dal nostro Antonio Amorosi, 13 su 13 azzeccati. Allora ci dobbiamo fermare, andate su Facebook, la nostra pagina 24 Mattino, siete sempre di più, ma continuate a iscrivervi, continuano i dibattiti. Ringrazio tutta la redazione, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, a Viola Bottoni e il nostro Peter Bescapè, l'alpino, in regia. A domani.